Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Come faccio tutte le sere attorno a quest'ora, ringrazio Edo per avervi accompagnato fino qua. Do il benvenuto a voi che siete sintonizzati sulle frequenze di Rock FM e vi ricordo che dopo sarò seguito da Marco Garavelli. Giulio Caperdoni quindi in vostra compagnia come tutti i giorni della settimana fra le 19 e le 20 con Eclettica. Trovate i dettagli di questa trasmissione oltre che sul sito di Rock FM www.radiorockfm.com anche su myspace.com/eclettica, compresi i dettagli del podcasting che vi permettono di ascoltare o riascoltare la trasmissione nel momento che preferite. Vi ricordo anche l'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com per scritture private, quindi non pubbliche come quelle pubblicate su MySpace, ma anche per iscriversi alla lista nera di Eclettica nel caso vogliate ricevere settimana per settimana la playlist della trasmissione. Non ho resistito e mi sono messo a scrivere questa storia dei miei primi passi nell'arena della vita, anche se avrei potuto farne a meno. Di certo so una cosa sola: non mi metterò mai più a scrivere la mia autobiografia, nemmeno dovessi campare 100 anni. Bisogna essere troppo bassamente innamorati di sé per scrivere senza vergogna della propria persona. La mia sola scusante è che non scrivo per il motivo per cui tutti di solito lo fanno, cioè per le lodi del lettore. Se a un tratto mi è saltato in mente di scrivere, parola per parola, tutto ciò che mi è accaduto dall'anno scorso a questa parte, è stato a causa di un'esigenza interiore. A tal punto mi ha colpito tutto ciò che è avvenuto. Questo era l'incipit dell'adolescente di Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. Number in the jungle, turned up with nothing but a loincloth to protect your tender panties from a stranger in the wildlife. Hushing your blood to hear a grass blade break beneath living thang, a weather edible or thread. A clump of thieves' teeth are hung strung around your neck. Look at matches in your left hand, some sharp in your right. When one first arms themselves to kill, they will be lucky to fall, even the older the ill. And while the killing will grow easy, it will never grow less complicated. Why, what kind of killer are you? Did you dig through its death unflinchingly, or did you just shut your breath and survive? What kind of killer are you? Did you decide you'd rather starve than go on taking the stage as a bachelor's degree? Homeowners and guts, it's prey. Did you decide you'd rather starve than go on taking the stage? Decide you'd rather starve than go on taking the stage? Do you still feel death? Do you still feel death? When one first arms themselves to kill, they will be lucky to fall, even the end of the earth. When one first arms themselves to kill, they will be lucky to fall, even the end of the earth. When one first arms themselves to kill, they will be lucky to fall. Well, well, well, Mr. Tannen. How nice to see you here. Why, Mr. Strickland, it's nice to see you, sir. Is that liquor I smell, Tannen? I wouldn't know. I don't know what liquor smells like because I'm too young to drink it. Our soldiers of the king are blind and walking through their dust. They are cutting down the ones who moan, but cannot tell what is just. Era da qualche settimana che la proposta dei Moon and Moon non appariva all'interno delle playlist di Eclettica, proposta non solo musicale la loro, ma c'è un approccio anche molto teatrale negli spettacoli. Ce li siamo appena ascoltati con Act 2. In precedenza invece un estratto da quello che è il nuovissimo album dei Subtle, nel caso specifico un estratto che vede la collaborazione di Tunde dei TV on the Radio. Deathful è il titolo del brano, ed ora invece una compilation che arriva all'episodio numero 3, ma a giudizio assolutamente personale se ne sarebbero potuti permettere solo uno, andando a prendere le tracce veramente interessanti di ciascuna delle tre uscite. Arriva dalla Francia, legata a Radio Nova, si chiama Reprise When Jazz Meets Pop, numero 3 è l'episodio in questione, dal quale io andrei a salvare le tracce di Chet Baker, di Quincy Jones o anche quella che ovviamente vado a trasmettere. Nel caso specifico si tratta di un artista francese, si chiama Karen Lanot, e questo è un brano originariamente degli AC/DC. Living easy, living free, soon taking on the one-way ride. Asking nothing, leave me be, taking everything in my stride. Don't need reason, don't need rhyme, ain't nothing I would rather do. Going down, party time, my friends are gonna be there too. No stop signs, speed limit, nobody's gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it, nobody's gonna mess me around. Hey Satan, paid my dues, playing in a rocking band. Hey mama, look at me, I'm on the way to the promised land. All'inizio di un luglio straordinariamente caldo, verso sera, un giovane scese per strada dallo stanzino che aveva preso in affitto in vicolo S e lentamente, come indeciso, si diresse verso il ponte K. Sulle scale riuscì a evitare l'incontro con la padrona di casa. Il suo stanzino era situato proprio sotto il tetto di un'alta casa a 5 piani e ricordava più un armadio che un alloggio vero e proprio. La padrona dell'appartamento, invece, dalla quale egli aveva preso in affitto quello stambugio, vitto e servizio compresi, viveva al piano inferiore, in un appartamento separato, e ogni volta che egli scendeva in strada, gli toccava immancabilmente di passare accanto alla cucina della padrona, che quasi sempre teneva la porta spalancata sulle scale. E ogni volta, passandole accanto, il giovane provava una sensazione dolorosa e vile, della quale si vergognava e che lo portava a storcere il viso in una smorfia. Doveva dei soldi alla padrona e temeva di incontrarla. Questo era l'incipit di Delitto e Castigo di Fyodor Mikhailovich Dostoevskij. Long What were you swimming away from? I can't stay with you no more. I had long. I had long. I had long, long dream. I had long dream about swimming across the sea. Statistics, interesting subject. Homework, Tannen? No, it ain't homework, because I ain't at home. You've got a real attitude problem, you know that, Tannen? Just watch it. Because one day I'll have you right where I want you, in detention. Slacker! avvicina alla chiusura della prima parte di Eclettica, ma vi ricordo che ci sarà una seconda parte, altrettanto lunga, altrettanto composta di musica, di incipit e di spezzoni cinematografici. Ci siamo appena ascoltati un pezzo che è estratto dall'album intitolato Hello Avalanche dei Octopus Project. Loro provengono da Austin, Texas, e Track è il titolo del brano appena ascoltato. In precedenza invece era stata la volta di Tyler Ramsey con A Long Dream, ed ora un estratto anomalo da Aspetto, l'ultimo album degli Altro che esce per la Tempesta Dischi. Perché dico anomalo? Perché ci hanno abituato, come anche con il pezzo passato, che era quello che già ho trasmesso sempre da questa loro ultima prova, ci hanno abituato gli Altro a pezzi cortissimi, tipicamente poco sopra il minuto. Invece questa Stefano addirittura oltrepassa i 3 minuti.